Radio 24 presenta Platone, la caverna dell'informazione di Leonardo Manera. Sabato 30 agosto, ormai agosto ci sta lasciando e settembre è lì, alle porte, dietro l'angolo. Sarete quasi ormai tutti tornati dalle vacanze, qualcuno di voi sarà ancora in coda oggi, ma ormai le code non sono più quelle di una volta, non è vero Alessandro Milan? Ah no, adesso si va spediti. Buongiorno Alessandro Milan, Leonardo, anche lui tornato dalle vacanze. Ebbene, sì. Siamo tutti pronti a rivedere settembre, con che stato d'animo? Con lo stato d'animo di chi deve mettere la sveglia alle 5, puoi immaginarlo. Guarda, per solidare, perché voi immagino lo sappiate, Alessandro Milan conduce tutte le mattine dal primo settembre, esatto. Dal primo settembre un programma che si chiama 24 mattina, dove comincia alle 6 e mezza fino alle 9. Quindi si alza alle 5 e mezza, ma ormai no, alle 5 per la precisione, come diceva un tale. Non ti vedo particolarmente allegro riguardo a questo... A questo fatto, diciamo. Ci sono sempre cose peggiori della vita, ma anche migliori. Ma anche il migliore. Mattino a loro in bocca. Certo, ma questa è notte. Però è notte, 5, è ancora notte. Però a settembre notte. Puoi ancora gustarti l'alba, forse, i primi di settembre. Mi sveglio, dico... Ah, che bell'alba su Milano alle 5.03. Ma noi siamo qui invece a Platone, la caverna dell'informazione, quindi abbiamo delle notizie vere che ci vengono fornite da Alessandro Milan e poi dei personaggi verosimili o anche no, o anche veri, insomma, diciamo. A volte sono più veri quelli delle notizie. E quindi cominciamo subito con qualche notizia. Per esempio, tu hai un cane, caro? No, ce l'ho avuto, si chiamava Cochise. Un pastore tedesco, l'avevo chiamato Cochise in onore del capo indiano dei Dakota, Sioux, Cochise, che morì il 15 dicembre del 1890. Perché qua si fa cultura, avete capito ormai. Io ero un grande appassionato di pelle rossa e Toro Seduto era il Sachem dei Sioux e allora in suo onore avevo chiamato il mio cane Cochise. Allora, sappi che i cani sono gelosi. I cani sono gelosi. Sono gelosi, è stato fatto uno studio. Cioè un cane è geloso perché vede un altro cane che si accoppia con un'altra cagnetta. No, non è così. No, sono gelosi dei padroni. Ah, dei padroni. Certo, è stato fatto uno studio su 36 cani, un esperimento. Hanno messo il padrone col suo cane in una stanza, hanno messo vicino al padrone, non so, un cagnolino di pezza o altri oggetti. Appena vedevano che il padrone del cane si concentrava, non so, sul cagnolino di pezza, il cane dava di matto. Cioè, se proprio andava lì, cercava attenzione. Hanno dedotto che il cane prova una gelosia simile a quella dei bambini. È vero, infatti i bambini appena vedono che tu, genitore, ti avvicini a un altro bambino e giochi con lui, immediatamente anche con i genitori lo fa. Se il bambino vede i due genitori che si abbracciano, il bambino viene subito certo, a mettersi in mezzo. È chiaro. Per cui, insomma, fate un bambino, prendetevi un cane. È la stessa cosa, questo è il messaggio che vogliamo dare. Il bambino equivale al cane. Bene. No, io non lo direi mai. Infatti, il mio bambino si chiama Fufi. Ah, pensavo Cochise. Hai chiamato il figlio Cochise. Però noi abbiamo anche tanti ospiti a Radio 24 e ne abbiamo convocato uno telefonicamente che è un comico, un amico, Alberto Patrucco. Buongiorno. Eccoci qua. È un po', sai che già mi mancavi, Leo. Non tantissimo, è il giusto, diciamo. Io ti ho definito a volte il re della polemica sterile, a volte. Esatto, no, lo fai quasi sempre. Io ormai non lo sento più perché accetto, cioè cedo alla violenza. Tu hai partecipato veramente a tante trasmissioni. Mi ricordo che iniziasti con una delle più... La sai l'ultima, è vero? Una delle tue prime cose. Ah, questa sì, io l'avevo rimossa, sì. Ho abbandonato il... polemizzando, ovviamente. Ho abbandonato subito il campo dopo la prima... Ero stato un po' raggirato, ma non entriamo nel personale. Andiamo anche nel personale. Poi hai partecipato alla trasmissione con Funari, se non sbaglio. Questo sì, questo è stato un bel episodio di televisione. Non è che ci hanno visto in tanti e ci vedevano i medium, io sono solito dire, però... è stata una cosa che mi è piaciuto fare per un certo periodo di tempo. Hai partecipato a Zelig, anche a Colorado, insomma hai fatto... Nessuno è perfetto, ecco, diciamo. Hai fatto così. Tante cose. Però oggi sei qui per un altro motivo, insomma, per parlare un po' di questa notizia di cui anch'io ho sentito appunto discutere, che pare il governo abbia intenzione di tassare le produzioni pornografiche, se non sbaglio. Sì, in effetti, infatti devo dire che c'è di che stupirsi, perché tra l'altro si parla anche di retroattività e devo dire che è veramente indegno di uno Stato civile andare a colpire una categoria così svantaggiata come quella del porno, già costretta a piegare la schiena e... Certo. e ad abbassare la testa, credo che tu ne convenga, senza contare che gli strali del fisco potrebbero rovinare un intero settore, cioè pare che un'eccessiva pressione fiscale inibisca lo stato di fierezza necessario ai lavoratori del comparto. Dici che crea un po' di tensione eccessiva, ansia da prestazione, viene una specie di ansia, cioè, da... Perché si crea una certa, è inevitabile, già insomma il mercato è flessibile, cioè voglio dire quello, sì. Ma adesso non entriamo, e poi devo dirti che in tutta onestà questa tassazione sarebbe controproducente per l'immagine stessa dell'intero sistema tributario. Insomma, si sa, al fisco piace mettere la gente in mutande, però che senso ha colpire una categoria di lavoratori che le mutande se le è già tolte, certo, un pezzo, oserei dire. Quindi la cosa sta scatenando reazioni contrastanti. Sai, tu, come giustamente dicevi, corre voce, però la cosa insomma sta agitando un po', soprattutto nel mondo dell'hard, insomma c'è tensione, la cosa non basta. Ma adesso lascia stare, alle preoccupazioni di molti fa da contraltare il pacato fatalismo, per dire, per citare un esponente di rilievo, di Jessica Rizzo, che ha la vecchia Jessica Rizzo, che ancora è nel settore? Ma certo, certo. Ah. Pare che sia, adesso sai che io non me ne intendo come te, però pare che sia più dedita alla produzione che all'esecuzione, sì. Però lei ha dichiarato, a proposito di questa idea di tassare il settore del porno, ha detto: dedicandomi a questo mestiere ero ben conscia che prima o poi l'avrei preso in quel posto. Giusto per usare una perifrasi. Esatto, per parlare come siamo soliti, con bon ton ed eleganza. Dunque, la proposta nasce anche dal fatto di dover coprire dei buchi di bilancio, ovviamente. Certo. E con questa porno tax si finanzierebbero, così dicono, addirittura gli asili, al che io dico, ma insomma è un po' come finanziare la sanità con la vendita dei proiettili come concetto. Comunque, se la tassa verrà introdotta, nessun problema, non sarà nella prima né l'ultima cosa ad essere introdotta in questa fase. Cioè... Di lavoratori. D'altra parte, adesso io, noi si drammatizza, ci si ride un po', ma per drammatizzare è una cosa che dico, d'altra parte la tassazione delle produzioni oscene potrebbe anche costituire, e questo potrebbe essere anche un vantaggio, un'iniezione di fantasia per i titoli di qualche film Marvel, tipo per esempio Prurito inguinale per la pressione fiscale, adesso dico io, oppure chiappe all'aria per effetto della finanziaria. Questo potrebbero stimolare nuove produzioni. Esatto, esattamente. Comunque, intanto, vedi, quando comunque affiorano questo tipo di tematiche e di cose, il solito torna alla vecchia tiritera, che insomma, e si torna a parlare di case di tolleranza, chi le vuole aperte, chi le vuole chiuse, chi è favorevole, chi è contrario, chi vuole la marchetta, chi vuole lo scontrino, insomma io dico, ma cosa vogliamo, riaprire le case di tolleranza? In Italia siamo già così pieni di casini. Ecco, io chiuderei con questa, va bene. Se sei d'accordo, ovviamente, certo. Sempre senza offese, col massimo rispetto. Grazie Alberto per essere stato con noi, buona fine estate a questo punto e ci vedremo in giro. Grazie, ciao. Perfetto, Alberto. Ciao. Questo era Alberto Patrucco, noi ci risentiamo dopo il traffico parlando di cultura. Donna, hai problemi di herpes labiale che si presenta regolarmente prima di ogni appuntamento importante? Allora non ricorrere a pomate e cerotti che hanno solo un effetto limitato e non risolvono il problema alla radice. Acquista invece con fiducia le labbra finte Bellugi, le labbra in plastica da applicare sopra le tue che si agganciano ai denti retrostanti, nascondono completamente il problema donandoti anche una cadenza esotica. Labbra finte Bellugi sono le labbra che ti esentano dall'uso di farmaci e che puoi scegliere in tutti i colori del Pantone. Labbra finte Bellugi, perché l'amore viene prima dell'herpes. Consigliato dai migliori stilisti di Parigi. Oui, c'est magnifique. Platone, la caverna dell'informazione. Bentornati a Platone, la caverna dell'informazione. Vi ricordiamo anche che potete sempre scrivere al nostro indirizzo di posta elettronica, che è platone@radio24.it, oppure potete anche scriverci sul nostro account Twitter, che è platone24. Esatto. Preceduto da una chiocciolina, se volete che anche noi si veda i vostri commenti, e ci teniamo molto. Esatto. Potete scriverci tutti, sei uomini, donne, bambini, stranieri, di tutto. Io vedo che tu hai sotto mano due pagine di un settimanale. Sì, L'Espresso. L'Espresso. Che a proposito di cultura, perché parliamo di quello, caro Leonardo, d'altronde noi siamo una trasmissione di cultura, fa sapere che la tecnologia è sempre più utilizzata nel mondo della cultura, il che non è sempre un bene, perché, per esempio, si può visitare Pompei in 3D attraverso l'utilizzo di strumenti elettronici, attraverso la tecnologia, oppure Villa Adriana a Tivoli, oppure vedere l'eruzione del Vesuvio in 3D, il che è un bene da una parte, però molti si chiedono, ma non è che poi con questa tecnologia la gente eviterà di recarsi sui posti? Alla fine dà più soddisfazione andare direttamente nei posti, come fare l'amore in 3D oppure farlo veramente, tu cosa preferisci? Devo dire che il paragone proprio si addice alla cultura. Io preferisco il sesso 3D, è cultura. 3D. Il sesso è cultura in qualche modo. Tu dici, io no, preferisco magari... il 3D, almeno lo faccio. Certo, e c'è molta gente che lo fa, però abbiamo anche quelli che si danno da fare sul campo, no? Perché noi invece abbiamo qui ospiti tutte le settimane un assessore alla cultura, che in realtà non è più assessore alla cultura perché ha trasformato il suo assessorato, non si chiama più assessorato alla cultura e adesso lo ci vogliamo dire? Oh, diciamolo. Diciamolo. Innanzitutto buongiorno. Innanzitutto buongiorno, voglio salutare tutti gli ascoltatori di Platone, che se non sbaglio è uno che è morto, no? E quindi sì, faccio certo le condoglianze a tutti i familiari. Da un po' di tempo, vabbè. Poi voglio dire che noi a Gottarello abbiamo preso questa iniziativa di abolire, come diceva appunto lei, l'assessorato alla cultura, per sostituirlo con un più moderno, più smart assessorato al passatempo. Assessorato al passatempo, quindi non c'è più a Gottarello l'assessorato alla cultura, ma c'è l'assessorato al passatempo. Passatempo. Per quale motivo? Ma perché ormai la cultura è una roba vecchia, superata. Quando vai a fare anche un colloquio di lavoro, secondo te che te chiedono? Te chiedono, non so, te parla in latino? No, ormai il latino non lo parlano manco più a latina, scusi. Sì. Te chiedono qualcosa del computer, di scaricare qualche up. Il latino, diciamolo, sì, una volta per tutte, è una lingua morta. Questo è vero. E noi pretendiamo di tenerla viva nei licei? Sì, c'è ancora. Questa non è cultura, è accanimento terapeutico, diciamo. Sì. E allora, quindi cosa avete fatto a Gottarello? Abbiamo sostituito tutte queste mostre che si fanno di solito con qualcosa di più moderno, di più innovativo, proprio per esaltare il passatempo. Per esempio, c'avevamo in programma questa mostra dei quadri di Fontana. Non so se lei conosce Fontana, certo, presente. Sì, Lucio Fontana. Quello che ha fatto i soldi tagliando le tele. Che se io da bambino prendevo l'unico quadro che avevamo in casa, una natura morta con Dumele e Dupere, e lo tagliavo, altro che arricchire. Mio padre mi prendeva e mi attaccava al muro e poi mi tagliava a me col temperino dal collo all'ombelico. Invece sto Fontana, secondo me ci ha presi tutti per il culo. Ha preso le tele, le ha tagliate e tutti a dire che è ingenio. Ma le tele vanno dipinte, mica tagliate, no? Lei me lo insegna. Beh, insomma. Vanno dipinte, c'è sta qualcosa che non va nel ragionamento di base. Come si fa a tagliare una tela? Come uno che si trova nel letto una donna disponibile che ti apre le cosce e invece di farsi l'amore si mette a parlare di filosofia, scusi, no? Allora, o è uomo sessuale oppure vuol dire che della vita non c'ha capito un cazzo, diciamolo, non se può, non so se mi spiego, no? Sì, quindi voi avete sostituito la mostra di Fontana con che cosa? Te l'abbiamo sostituita con una cosa più popolare, una mostra che si intitola I fumetti del barbiere negli anni 70, tra nostalgia ed erotismo. Il titolo è lungo, però era importante concentrare tutto, perché si sa che negli anni 70 gli uomini andavano dal barbiere anche per guardare i fumetti, non so se ricorda, un po' spinti, c'è a presente. Ecco, si guardavano i fumetti un po' spinti che ci stavano dal barbiere e ce l'avevo messi tutti in questa mostra. Ho anche messo la mia de collezione personale de corna vissute che conservo gelosamente. Oh, sapete che è successo? Un successo straordinario! Sono anche venuti i parenti di Fontana a farci i complimenti, anche perché dei quadri tagliati si sono rotti pure li coglioni pure loro. Ho capito, assessore, quindi cosa possiamo concludere? È che al giorno d'oggi, fortunatamente, la cultura è finita. Quello che conta è il passatempo. E noi a Gottarello facciamo di tutto per darlo ai nostri cittadini e ai nostri ospiti che vengono a trovarci. Grazie assessore Birolli per essere stato con noi anche questa puntata di Platone. Tu ti ricordi, visto che quando l'assessore parlava del barbiere, dei fumetti erotici, tu annuivi. Io andavo da Enzo a Sesto San Giovanni, che saluta ancora il parrucchiere Enzo, e sì, certo, ovviamente cercando di mettere davanti un giornale normale, certo, però in realtà nascondendo dietro. Ma è ovvio, è chiaro, a 12 anni, 13 anni. Tu sai che io ho un aneddoto in merito. Hai una fidanzata che ha fatto? No. No, allora, ero appena arrivato a Milano, era l'89, sì, sì. Lavoravo in un locale che si chiamava La Corte dei Miracoli, che sì, era frequentato da un disegnatore di questi fumetti, di Corna Vissute in particolare. E lui prendeva spunto da noi, che conosceva, per farli protagonisti dei suoi fumetti. E io, che allora... ti potremmo ritrovare in un fumetto? Ti dico anche in quale. Io, che allora facevo il prestigiatore, facevo tutte le figure con i palloncini, gli animaletti con i palloncini, sì, sono stato protagonista di un episodio di Corna Vissute che si chiamava Il Mago del Cazzo. Ma ti prego, tu dimmi che ne hai una copia, tu dimmi che ne hai una copia, la mettiamo a disposizione, la puntata è sul sito, su Platone24, il nostro account Twitter. La storia era di questo mago che aveva tutti questi palloncini che utilizzava come strumenti erotici. Ma sai, se tu ne hai una copia, io te la compro a peso d'oro, Leonardo. Sono disposto, non so, 300 euro te li metto lì. Potrei pensarci, va bene, però noi a questo punto invece riprendiamo seriamente a parlare con un ospite. Ma eri serissimo finora. Con Omar Pedrini, buongiorno Omar. Buongiorno a tutti, ciao ciao ragazzi. Ciao Omar, tra l'altro noi siamo conterranei più o meno, siamo entrambi della provincia di Brescia, no? Io sono originario... Siamo entrambi gardesani. Sì. Gardesani, io sono originario di Salò, tu di dove sei? Io di Campione del Garda. Campione del Garda, che per chi non lo sapesse è un po' è a metà lago più o meno, ed è un posto conosciuto per chi va a fare surf e windsurf, giusto? Sì, perché la caratteristica del luogo è il vento, che non manca mai, quella che chiamiamo l'ora, ma in realtà nacque sulla fine dell'Ottocento come borgo operaio, i miei genitori erano operai del cotonificio che c'era lì, ed è il paese più piccolo, credo, del lago di Garda. Sì, è anche suggestivo perché proprio attaccato al lago c'è la montagna che si erge proprio dritta sopra il lago, quindi fa anche impressione, sì, per chi ci arriva la prima volta. Spaventa molti, ma fu la sua fortuna durante i bombardamenti nella Seconda Guerra Mondiale, perché appunto gli aerei non riuscivano a impennarsi dopo aver sganciato le bombe, quindi tanti venivano a rifugiarsi nelle gallerie campionesi gardesane. A Campione. Grazie del bel ricordo. Che è insomma veramente una località che vale la pena di visitare, almeno una volta ci si passa, si può fare il bagno anche se non si va col surf. Sì, illustri poeti scrissero che non si può morire senza aver visto il lago di Garda. Quindi sì, Goethe, lo consiglio, no? Davvero. Approfittiamone per consigliarlo. Fu una delle prime tappe, credo, di Goethe nel viaggio in Italia. Va bene. Bravissimo. Bravo. Bravo Gnaro. Gnaro vuol dire, per chi non sapesse, ragazzo in bresciano. Senti, io ti ho chiesto di occuparti di una notizia. Quale hai scelto? Ma guarda, sfogliavo un mensile in questi giorni, nelle pause dalla tournée, e mi ha colpito molto, insomma, questo divieto alle donne, questo divieto di risata, appunto, che arriva dalla Turchia, dal vice premier, braccio destro di Erdogan, Arink, quindi che ha vietato, appunto, per il costume, per il giusto costume della donna. Sì, ha detto che sarebbe sconveniente, che è sconveniente che le donne ridano in pubblico, se non sbaglio. Sì, sì, ti cito la frase che è sua: per non essere peccaminosa, una donna deve proteggere la sua castità. E quando la guardiamo abbasserà gli occhi per non essere seducente, sì, e mai riderà in pubblico. Io sono d'accordo. La trovo. Oddio, sul ridere in pubblico ho visto. Quindi vedi le ombre, sei d'accordo. Esatto. Okay, allora accetto. Tu cosa ne pensi? La trovo ovviamente, è mia intenzione essere leggero come siete voi con questo bellissimo programma, ma c'è poco da ridere, no? Per cui questa Turchia che diventerà Europa, insomma mi sembra drammatico questo. È bellissima la reazione, perché appunto l'articolo che ti citavo raccoglie molte foto dal web, come sempre anarchico come sono io, e tu lo sai bene, di carattere e per scelta, anarchico responsabile, ci sono centinaia di migliaia di donne che appunto postano le loro foto ridendo a sì, sì. 32 denti. Ecco, e poi insomma, cosa. Vedere una donna ridere è una delle cose più belle, no? Io lo dico anche da comico, si è sempre gratificati quando vedi una donna che ride anche. Credo che sia straordinario, poi anche un'arma di seduzione per chi non è un Adone. È inutile negarlo. E la donna ridendo ridiventa bambina spesso, per cui trovo che sia una delle cose più dolci ridere in compagnia delle donne, che questa cosa mi ha colpito molto, ma la reazione delle donne proprio con la risata è stata certo. straordinaria. E mi è venuto in mente, a proposito di anarchia, la famosa citazione, no, di Bakunin, degli anarchici dell'Ottocento e poi del 68 francese: una risata vi seppellirà. E credo che Erdogan e il suo braccio destro Arink, che in bresciano sembrerebbe Aringa, insomma, penso che verranno e siano stati seppelliti dalla reazione simpatica di tutte le donne turche. E noi speriamo che le donne continuino a ridere spontaneamente e di vederle ridere, che appunto per gli uomini è la cosa più bella che possa capitare, oltre a farci l'amore quando insomma ce la si fa. Grazie Omar. Grazie a te, Leo. Grazie per essere stato con noi e buona continuazione di concerto. In giro. Un okay. abbraccio a tutta Radio 24. Grazie Omar Pedrini, noi ci sentiamo fra poco con il nostro inviato Ratko. Donna, hai un marito o un fidanzato ipocondriaco che teme in modo eccessivo le malattie e ogni giorno si misura la febbre spaventandosi anche per un 37? Allora regalagli il termometro Ghidoli, il termometro elettronico che anche di fronte a una febbre da cavallo segna sempre 36,5. E che tranquillizza anche l'ipocondriaco più spinto. Termometro Ghidoli è il termometro falso che migliora la vita di coppia con l'uomo malato e lo induce a non preoccuparsi e a prendere la vita con leggerezza anche in caso di polmonite. Donna, se ormai sei fidanzata con l'uomo ipocondriaco ed è troppo complicato separarsi, prova con il termometro Ghidoli, il termometro per l'uomo ipocondriaco che nasconde la patologia e migliora la vita di coppia. Platone, la caverna dell'informazione. Bentornati a Platone, la caverna dell'informazione. Vi ricordiamo ancora una volta il nostro indirizzo di posta: platone@radio24.it oppure account Twitter platone24. Noi ogni settimana di questa estate abbiamo un nostro inviato, Ratko, che mandiamo nei luoghi tipici dell'estate per capire come procede appunto l'estate italiana, e andiamo a vedere dove si trova questa settimana. Buongiorno Ratko. Buongiorno Manera, buongiorno Milano e tutti gli amici di Radio 24. Ebbene, dopo tante settimane passate a parlare dei quali posti più frequentati da italiani, io credo sia giusto parlare anche di quale posto più frequentato da noi stranieri, perché anche noi facciamo parte di questo bello paese, è vero? Milano sa benissimo che stranieri contribuiamo al 10% del PIL italiano, e quindi è giusto sapere dove, che posti frequentiamo anche noi. Questo è vero, sono d'accordo. E quindi lei, Ratko, dove si trova di preciso? A Radio Padania Manera. È una battuta, dai, è più facile trovare Calderoli in una moschea che uno straniero a Radio Padania, dai. No, mi trovo in ufficio immigrazione, e dove se no? Ma sai che noi stranieri passiamo più tempo qua in ufficio immigrazione che in famiglia? Proprio oggi, venendo qui, ho trovato una signora che mi chiedeva dove era l'ufficio immigrazione, in che aria si respira lì? Viziata Manera, finestre sono chiuse e hanno sbarre. Non intendevo il clima, insomma, che si vive. No. Cioè, fuori c'è sole, ma dentro ufficio piove, lo fanno apposta per scoraggiarci a rimanere in vostro paese, ma noi non molliamo. E poi non solo piove, ma hanno anche tappezzato pareti con paesaggi bellissimi, soleggiati, di Africa, Ucraina e Asia, dove donne stupende ci fanno occhiolino, solo per farci tornare nostalgia di casa, ma noi non molliamo. Sì, immagino che ci sarà anche poi una coda da fare, come sempre in queste circostanze. Fila da fare lunghissima Manera. A metà fila c'è anche un passaggio in livello sempre chiuso, anche se non passa mai un treno, ma noi non molliamo. E oltre a questo, da uno lato ci hanno messo uno gazebo, con quelli della Lega che distribuiscono volantini contro immigrazione, e da altra parte hanno messo comparse vestiti da Croce Rossa, ci offrono pasti caldi, scaduti, ma noi non molliamo. E quando finalmente, dopo tutta questa lunga schifesa, arrivi a sportello di informazioni e là ci trovi Borghezio, e là sì che molliamo allora, perché poi resistere a tutto, anche a bastonate, ma pensare di ricevere chiarimenti da Borghezio, uno che non arriva neanche a contrarre fino a tre, è come voler ubriacare un russo con Mon Cheri, mi ci vuole un po'. Sì, però questa sua descrizione mi sembra un po' esagerata, insomma, no? È vero Manera, non è realtà. però questo incubo che io veramente ho avuto dopo aver cenato a casa di Alessandro Milan, io questo devo dire. Com'è a casa? Io mica l'ho invitata. È vero Milan, tu non mi hai invitato, ma mi sono invitato io, no. Mentre tu stavi a mare con famiglia, no, allora se altrimenti col cazzo che riuscivo a vedere casa tua, e comunque no. Dopo ve racconterò dopo più tardi come sono arrivato in Italia e cosa è successo a me veramente in ufficio immigrazia. Va bene, grazie Ratko allora per questo preambolo, preludio a quello che ci... va bene. Racconterà dopo e ci risentiamo dopo. Grazie Ratko, io direi... Mi sa che devo andare a casa a controllare. Chiamo tua moglie, di andare a controllare. No, infatti, non hai l'antifurto col telefonino? No, non ho l'antifurto, io vado un attimo a casa, se possibile. E prima però facciamoci dare un'altra notizia. Ti do questa bella notizia di costume, questa è fantastica. Sai che c'è un compleanno da festeggiare. 10 anni di Tom Tom, nel senso del navigatore. 10 anni fa dovevi tirar giù il finestrino e dire: chiedere, mi scusi. Sai, è un aneddoto. Io aspettavo, questo, infatti. Ho un aneddoto. Stavo andando a fare una serata a Modena. In un locale, non mi ricordo più che esattamente che situazione era. Ho abbassato il finestrino per chiedere l'informazione. Dovevo andare in via Caselle. Via Caselle di Modena, prendete via Caselle nota, di abitanti Modena. Di via Caselle a Modena. C'era questo anziano che gli dico dovrei andare in via Caselle e questo comincia, via Caselle, Caselle. Comincia ad andare avanti e indietro per la strada continuando a ripetere via Caselle. Io sono andato via dopo 5 minuti che lui ancora ripeteva via Caselle. Ma l'estate anche il tempo, hai qualche notizia su come ci si veste? Sai che la scorsa l'estate settimana mi hai detto che andava di moda il pareo, ora è tornato di moda del dandy. Il dandy, chi è il dandy? Vabbè, il dandy è come quello che si veste alla Dorian Gray, dai, di Oscar Wilde. Un po' la Giannino, diciamo. Un po' la Giannino, infatti, per far capire un meglio. Un po' ricercato. Esatto, e quindi c'è un sondaggio di eBay. Sì. Secondo il quale l'uomo è particolarmente attento al look e si riscopre queste, non so, sai, scarpe arancioni con gilet verde. Ma è Giannino in tutto e per tutto. È la descrizione al 100% di Giannino, è inutile negarlo. Esatto. E quindi ho chiesto un'indicazione una volta a Giannino. Via Caselle. Giannino. Vabbè, torna di moda il dandy. Quindi dandy. Anche, come dire, un po' accostamenti di colori un po' così. A che peccato si potrebbe accostare quello che bada molto al modo di vestire? Non lo so, perché è peccato. È un peccato chi è molto, molto elegante, quindi avido, no. Avido. Bada molto a se stesso, molto egocentrico. So. Sentiamo cosa ne pensa il nostro Don Danilo di questo. Noi abbiamo qui un prete che ci accompagna in queste nostre puntate di Platone, che parla come Papa Francesco, ma in realtà insomma ha un atteggiamento e anche un modo di pensare abbastanza diverso. E quindi a Don Danilo chiediamo cosa ne pensa la Chiesa, la base della Chiesa, che lui qui in persona, di questo atteggiamento ormai consolidato nella nostra società di chi si preoccupa di se stesso, del proprio benessere, della propria sostanzialmente della propria identità e basta, mettendo da parte il comandamento che dice ama il tuo prossimo come te stesso. Lei cosa ne pensa? Guardi, il nostro pastore Francesco ha lanciato un monito ai fedeli: mettiamo da parte l'egoismo, perché di questo si tratta. L'egoismo è una piaga sociale che in un periodo come questo, dove poca gente ha tanto e molta, troppa gente ha niente, la fa da padrone. E noi bassi della Chiesa, che siamo quelli più vicini ai poveri e a quelli che soffrono, diciamo chi ha di più deve dare. Deve dare! Quindi Don Danilo, lei ribadisce la regola cristiana che il ricco deve donare al povero. Sì, il ricco deve donare alla Chiesa e non al povero. Attenzione, Chiesa, certo. Sarà poi la Chiesa a dare qualcosa al povero per la sua sopravvivenza, per la sua sussistenza. Perché se il ricco veda dona direttamente al povero, il povero che non è abituato alla giattezza, è come un bambino che non mangia da 10 giorni. E tu d'improvviso le dai 2 porzioni di lasagne, ti muore! E chi siamo noi per uccidere? Chi siamo? Vogliamo parlare di quei poveri allora che sono andati direttamente a chiedere ai ricchi? Si sono visti sbattere la porta in faccia! E se non ci fosse stata la Chiesa a mediare, dall'ira, questi poveri sarebbero diventati rapinatori, delinquenti, ladri! ladri come solo i poveri sanno essere quando non sono nella grazia del Signore. Ma scusi, Don Danilo, ci sono anche molte persone agiate che hanno rubato e in Italia ne abbiamo esempi quotidianamente, è inutile negarlo. È vero, è vero, rubare è un peccato, un grave peccato, sia per uno ricco che per uno povero. Non dobbiamo dimenticare che però il ricco preso a rubare spesso si è pentito di questo. E lo sappiamo noi dal segreto della confessione, lo vediamo anche alla domenica quando viene alla messa, ma soprattutto dalle donazioni che i ricchi fanno alla Chiesa. Questa è una cosa bella. Anche il povero in questo senso si pente quando, diciamo, quando commette il peccato di rubare. Sì, si pente, si confessa il povero, viene alla messa, ma non dà niente, non dà niente. E non restituendo non ci sono prove tangibili del suo pentimento. E mi posso io fidare della parola di un ladro? Mi posso fidare di una persona malata d'egoismo? Allora i poveri meglio isolarli in una prigione. Sì, se hanno rubato comunque ci sono anche gli arresti domiciliari per i reati meno gravi. Ecco. Certo, è vero, perché ha una bella casa con un bel giardino che è un posto dove ti puoi isolare per pregare e pentirti del male che hai fatto, sì. Ma uno che vive in un monolocale, un povero che vive in un monolocale con 5 figli magari che ti girano intorno e ti fanno casino, ma oltre di non pregare, il povero rischia di nominare il nome di Dio in vano, aggiungendo peccato al peccato. Allora cos'è meglio? Meglio che il povero stia isolato da chi è nella gioia e stia in prigione. Questo è il commento che ci fa Don Danilo, sempre molto moderato. Grazie Don Danilo, buona continuazione di giornata. Grazie a voi. Alessandro Milan, cosa ne pensi di questi commenti di Don Danilo? È più moderato del solito, l'ho trovato un po' più sfumato, comincia a istituzionalizzarsi, diciamo così. Va bene, questo era Don Danilo. Cambiamo completamente argomento, perché invece l'estate, che pure si va in qualche modo concludendo, ci ha visti spesso parlare con un medico di pronto soccorso, perché spesso insomma i pronto soccorso sono affollati d'estate, tu te lo insegni. No? Certo, capita più spesso che d'estate che d'inverno. E allora noi, Alessandro, abbiamo in collegamento il nostro dottor Mazza, che ci racconta sempre qualcosa della sanità pubblica. Dottore, ben ritrovato. Ben ritrovato a lei, Milan. L'aspetto sempre al pronto soccorso. Vengo di corsa. Quando può venire, l'aspettiamo gioiosamente. Gioiosamente. La settimana scorsa è venuto al pronto soccorso un 60enne che per fare bella figura con la sua amante 30enne si era imbottito di Viagra. Sì. Gli erano diventati rigidi anche i lobi delle orecchie. Per fargli finire l'eccitazione le abbiamo provate tutte. Prima le abbiamo dato latte col cognac, poi il Valium, che è una specie di Valium preso dal discount. Poi siamo passati i sistemi pesanti. Gli abbiamo mostrato la foto della moglie, ma non c'era verso di calmarlo. Proprio no. Ha cominciato a inseguire la caposala, che si chiama Marisa, ma è soprannominata Fiesta Snack. Fiesta Snack. Sì, perché per andare a letto con lei non ci deve vedere più dalla fame. A causa del sangue che confluiva verso l'inguine e defluiva dal cervello, il paziente ha iniziato a vagare nudo per il pronto soccorso, gridando frasi irreali, come per esempio: il Milan quest'anno vincerà lo scudetto, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Abbiamo capito che era irrecuperabile, allora abbiamo proceduto con la terapia estrema, lo abbiamo indirizzato verso la camera iperbarica, dove la caposala Fiesta Snack lo attendeva vestita con zoccoli da infermiera, body aderentissimo in pelle di pensionato, calze a rete e reggicalze attaccato ai cuscinetti di posi con 2 tasselli del 12. Mentre il paziente effettuava l'atto estremo, ci siamo avvicinati e lo abbiamo eliminato con un'overdose in vena di latte e cognac. Mamma mia, questa pelle di pensionato, ma dottor... A dimostrazione che i rimedi della nonna funzionano sempre. Sempre, sempre. Le ultime parole che ha detto prima di andarsene sono state: c'è un biscotto. È un biscotto? No, ma dai, ma dottor Mazza, guarda. Ormai la salute è diventata una cosa da ricchi. L'unica consolazione è che nella vita prima o poi tutti dobbiamo morire. E venendo da noi può succedere prima del previsto. Mi sa proprio di sì, dottor Mazza. Arrivederci, Milan. C'è qualcosa che non va nella tua vita? Ti senti solo? Triste? Depresso? Allora non passare le tue serate in casa da solo. Vieni anche tu al Bar Bellugi, dove troverai un'atmosfera cordiale e i panini imbottiti della signora Rosa Bellugi. Il panino al salame, il panino al prosciutto e per i più golosi ci sono anche i toast. Oltre al karaoke con le canzoni più alla moda cantate dal figlio, Remo Bellugi. E alla fine, per i più scatenati, c'è anche la tombola condotta dal simpatico Primo Bellugi, il capofamiglia. Bar Bellugi, in via Tronco. perché ricominciare si può. Platone, la caverna dell'informazione. Bentornati in questo nostro 30 agosto 2014, Platone, la caverna dell'informazione. Avevamo lasciato prima Ratko e adesso ci ricolleghiamo con il nostro inviato, appunto Ratko, che ci racconterà come è arrivato qui da noi. Pronto Ratko, ci sente? Eccomi qua, sì. Adesso vi racconto come sono arrivato qua. Io per arrivare qua sono scappato da guerra dei Balcani, quando c'è stata, vi ricordate? Sì. E ho dovuto schivare pallottole croate, mortai serbi, bombardamenti NATO, perché neanche voi ci avete fatto mancare uno cazzo di niente, siamo sinceri, Infatti se mia città dove sono nato finalmente abbiamo un cinema all'aperto è grazie ai vostri cazzo di bombardamenti, perché prima il cinema era chiuso come certo. Tutti. Però comunque, bombardamenti non bombardamenti, sono uscito a arrivare in Italia senza neanche uno graffio. Questo almeno fino a che non ho cercato lavoro in vostro cantiere di italiano. Perché come straniero senza documenti clandestino, ma rischiavo meno vita a fare tip-tap in un campo minato de Bosnia che lavorare in vostro cantiere edile. E quindi cosa è successo? È successo che in questo cantiere edile eravamo tutti stranieri, quelli che lavoravano, anche capo cantiere, perché era de Bergamo. Che cazzo capiva quello che diceva? Non si capiva. Io per primi tempi credevo che era musulmano, infatti ogni volta che mi parlava rispondeva l'Akbar, l'Akbar, si incazzava ancora di più. E poi abbiamo capito che volevamo comunicare fra di noi, ci dovevamo capire, e tutti e due abbiamo fatto un corso di lingua italiana. Solo che un giorno stavo lavorando e è caduto un mattone vicino a mia testa. Allora io ho pensato, se questo mattone cade in mia testa fa uno buco così, grande, no? Cioè, se noi ci facevamo male, noi poveri stranieri, in questo cantiere di non potevamo andare all'ospedale e dire che eravamo fatto male al lavoro, perché perdevamo posto tutti quanti. Dovevamo andare a dire che l'ha crassato incidente domestico. Cioè, tu arrivavi all'ospedale, no? Tutto intubato, pieno di flebo, con macchine attaccate come slot machine dietro testa, così, no? Arrivavi là, il dottore prendeva in mano tua cartella clinica, diceva allora, signor Ratko Radulovic, vediamo lei cosa ha, tre costole incrinate, femore rotto, poi qua frattura del radio, autoradio, questo occhio da colore non è neanche suo, incidente domestico. Ma cosa ha fatto? Stavo facendo vitello tonnato, dottore. Ma come vitello tonnato? Pastita maionese mi ha spinto giù per scale, ma cosa volevi dire, Manera, a quel punto? Non era credibile. Allora, dopo anni che lavoravo così, ho detto basta, sono andato di capo cantiere, ho detto, oi, uomo, adesso o tu me fai uno contratto o io a te te denuncio a Gabibbo. Perché è incredibile, ma in Italia denuncia a pupazzo fa più paura che autorità. Questo siete è vero. Siete un popolo strano. Infatti lui mi ha detto, no, fa denuncia ai miei email, a carabinieri, polizia, ma Gabibbo no, ti do quello che vuoi, ti do uno contratto, tredicesima, quattordicesima, ferie pagate. Ah, ero felice quando mi ha detto questa cosa. Mi fa, ma dai, dammi, fa, guarda, fa, te do subito, se mi fai vedere il tuo permesso di soggiorno. Io non avevo permesso di soggiorno, ho detto no. Allora lui mi ha detto, guarda, allora per legge italiana, se tu non hai permesso di soggiorno, non puoi avere un contratto di lavoro. E così è finito l'ufficio immigrazione. È finito l'ufficio immigrazione, esattamente. E là ho fatto una coda lunghissima, come ti spiegavo prima. Arrivo finalmente, quando tocca il mio turno, ho detto, voglio un permesso di soggiorno. L'impiegato mi fa, guarda, do subito, basta che mi fa vedere il suo contratto di lavoro. Quindi? Quindi ho detto, scusa un momento, perché poi sai, magari io parlo male italiano, adesso parlavo molto peggio di adesso, no? Ho detto, magari lui non ha capito uno cazzo di niente, ho detto, amico, io ho bisogno del tuo permesso del soggiorno per avere il mio contratto di lavoro, ho detto, no, al contrario. E lui mi ha detto, è vero, però per legge italiana, se tu non hai contratto di lavoro non puoi avere permesso di soggiorno, cioè capisci com'è legge? Cioè tu vai a chiedere contratto e non ti danno perché non hai permesso di soggiorno, vai a chiedere permesso di soggiorno e non ti danno se non hai contratto, cioè non c'è logica maniera in questa, non è logico. È come se uno per partecipare alla gita degli orfanelli dovessi avere bisogno del firma dei genitori. E quindi? E quindi ho detto, ho chiesto lui, ma dove vado io a mangiare con i miei figli? Dove vado? Vado a Međugorje. E cosa ha risposto? Mi ha detto, sai che è una buona idea. Del resto, se con Međugorje c'è riuscito a mangiare Paolo Brosio, mi ha detto, tanto meglio lei che de madrelingua. Grazie Ratko. Grazie a Ratko. Hai sentito questa testimonianza, Alessandro, di vita, di Ratko, del scappato lavoro? Scappato dalla guerra, poveretto. Sì, parlava di lavoro, so che tu hai anche notizia seria sul allora, lavoro. C'è una notizia seria, come sai che il Fondo Monetario Internazionale ha detto, e quindi ci proiettiamo per l'autunno, che le previsioni di crescita sono dimezzate. Si pensava allo 0,6%, invece siamo allo 0,3% di crescita, sempre che non vedano ancora al ribasso queste cose. Quindi la situazione è un po' grigia. Vediamo se c'è qualche ascoltatore che ha qualche cosa da dirci sul lavoro, sulla situazione del lavoro. Il 30 agosto ormai le persone hanno ripreso a lavorare. Insomma. Vediamo se c'è in linea qualcuno. Pronto? Parecchio, è Milan. Eccolo qua, sì, sono Milan, Battista. Battista da Cavaglione Veronese, agente di commercio. Oh. Guarda, non ti ascolto mai Milan al programma. Però voglio dirti che gli italiani ormai hanno finito i soldi, capisci Milan? Sì. Ormai c'è gente che per mangiare qualcosa va in chiesa a fare la comunione, capisci Milan? No, oh, mamma mia. Il problema è che quelli che rubano di più sono quelli che hanno meno bisogno di rubare. E quello che ruba di più è lo Stato. In Italia lavori 6 mesi all'anno per pagare le tasse. Mm. E sei così di morale che gli altri 6 mesi lavori per pagare un psicologo, capisci Milan? Questo è un po' vero, è triste ma vero. Poi torni a casa, non puoi fermarti a un semaforo che ci sono gli extracomunitari che ti vogliono lavare il vetro. Solo che usano l'acqua così nera che invece di lavartela te lo sporcano. Guarda Milan, ormai io in macchina nel cruscotto ho un flacone di Bref Professional. Così se a semaforo vogliono lavarmi i vetri almeno uso il mio prodotto. Anzi, gli do anche la moneta e vado fuori io a lavarmelo. Così il servizio è completo, preferisco farlo io, Milan, capisci? Al semaforo dopo ci sono i zingari col cartello che dice che ha 10 figli da mantenere. Ho visto un automobilista che si è avvicinato e gli ha dato un preservativo, capisci Milan? Io penso, Milan, che tutti questi personaggi vengono al semaforo, vengono messi a posto dal comune, perché così al semaforo l'automobilista per non fermarsi passa col rosso, così il comune ti dà la multa e è in casa. Quei personaggi non sono zingari veri, sono delle comparse messe al comune per dare le multe, capisci Milan? E con questa verità che ho detto qui ti saluto Milan, arrivederci verità. E attenti ai semafori. Grazie Battista, arrivederci. E beh, il nostro ascoltatore affezionato Battista da Cavaglion Veronese, che è lì sempre per strada, fa l'agente di commercio e va sulle strade di tutta Italia, vede quello che succede. Ma la cosa bella di Platone è che noi abbiamo anche, per fortuna insomma, capitano dei personaggi che sono proprio lì dove succedono i fatti importanti. Per esempio, un sacerdote originario di Monza, parroco di un paesino di Stresa sul Lago Maggiore, è stato arrestato non molti giorni fa per uso di sostanze stupefacenti e spaccio. Ed abbiamo qui casualmente con noi al telefono il sacrestano della parrocchia, uomo molto vicino al sacerdote. Buongiorno signor. Buongiorno, Mario Rossi. Buongiorno signor Manera. Ah, ho capito, Mario Rossi è un nome di comodo, immagino. Assolutamente sì, io mi chiamo Gualtiero Valfresco. Ripeto, Gualtiero Valfresco, comunque preferirei non si sapesse che sono Gualtiero Valfresco. Sì, ma senta signor Rossi, lei ha mai avuto qualche sospetto sul sacerdote? Ma Dio, a parte che era convinto di camminare sul lago, invece stava ancora sul molo, devo dire no. Cioè, anche se forse che ci fosse qualcosa che non andava, forse potevamo anche capirlo, perché l'ultima messa celebrata, quando si è rivolto ai fedeli dicendo scambiate le segni pace, cazzo! Ho capito, va bene. Però per il resto no. Sì, ma i parrocchiani cosa dicono di questa notizia? Ci sono rimasti male, molto male. Oltretutto erano aumentati di molto anche negli ultimi tempi, infatti quelli più sconvolti dall'arresto sono stati proprio gli ultimi arrivati. Pensi che uno di loro ha anche detto minchia, ma proprio adesso che avevo visto la Madonna. Quindi mi sta dicendo che molti frequentatori erano anche dei clienti del parroco? Clienti lo sostiene lei. Per me erano semplici fedeli che il parroco di volta in volta così coinvolgeva in quei piccoli gesti classici che c'ha il rito della messa, come l'uso del turibolo con l'incenso. Si dice che questo prete fosse anche una persona molto carismatica. È vero, lui aveva questo potere di calmare gli agitati, di rasserenare gli incupiti, di appagare gli insoddisfatti. Solo con i cani narcotici non è riuscito a stabilire un contatto, infatti hanno ululato per giorni e giorni, soltanto anche quando lo vedevano in TV, lui e Maradona, era impossibile fermarli. Senta, cosa ha detto il parroco quando l'hanno arrestato? Chi è senza peccato scaglia il primo cammello. Va bene. Cosa salutiamo il signor Mario Rossi e sì, grazie. Sì, Mario Rossi. Sono fresco. Ringraziamolo per questa testimonianza. Grazie al signor Mario Rossi. Allora, siamo quasi arrivati alla fine di questa puntata. Siamo al 30 agosto. Tra poco riprenderà la stagione televisiva autunnale, quindi non possiamo non finire, Alessandro. Con lui, il professor Limoncelli. Che lui è un critico storico della televisione al quale ci appoggiamo ogni settimana. Certo. Professor Limoncelli, eccoci qua. Buongiorno. Buongiorno. A voi, sono sempre qui presente per la vostra trasmissione discutibile. Eccolo lì. E come sa, noi intanto com'è stata questa televisione estiva? Che ne pare? Ma naturalmente non si può chiedere troppo la televisione estiva. La televisione estiva porta avanti secondo un modulo di interdipendenza orizzontale, purtroppo non nel primario ma nel secondario interessi della popolazione, la riconversione e articolazione periferica dei servizi, evidenziando ed esplicitando con le dovute e imprescindibili sottolineature il coinvolgimento passivo di operatori ed utenti. è un concetto molto complicato, quello che in pratica che cosa vuol dire? Una pensione di cultura, ma non vuol dire assolutamente nulla, non vuol dire nulla, ho dato una montagna di stronzate, però essendo io il professor Limoncelli voi restate ad ascoltare, perché sono una pensione di cultura, al di là della maieutica, dell'ermeneutica, a me piace sapere che pendete dalle mie labbra, anche se sto dicendo una montagna di stronzate, Caravan Petrol, din din, tun tun bam bam. Cosa, scusi? Caravan Petrol, din din, tun tun bam bam. Ma cos'è? Ha lo stesso significato di prima, stronzate, stronzate assolute, e lei ha abboccato come un obrincolo. Uno, un che? Un obrincolo. Un brincolo. È un animale che non esiste, l'ho inventato io adesso, lei ti è cascato ancora, è un pollo, Milan. Pollo, pollo, la capisco. È un obrincolo. Un obrincolo, vabbè, senta, noi come sa le chiediamo quali trasmissioni vale la pena guardare in TV, quali non bisogna guardare, cominciamo da queste ultime. Ma non bisogna assolutamente guardare i talk show politici, finti programmi di approfondimento dove i politici invece di parlare dei problemi del paese approfittano dei mass media per farsi belli e gratificare il proprio ego, sono programmi assolutamente spiacevoli, assolutamente discutibili, del tutto coliandrici. Del tutto? Coliandrici. Coliandrici. È un termine che ho inventato adesso, non so cosa significa, comunque io appena per caso capito su un talk show politico non solo spengo la televisione, la prendo e la butto dalla finestra. Ho in causa 3 procedimenti per lesioni colpose, perché sa, dove abito io è molto trafficato, purtroppo sotto passavano cittadini comuni e non magari un Bruno Vespa, un Michele Santoro, un Corrado Formigli. In quei casi sarei stato contento di essere inquisito per lesioni personali, anzi volontarie. Vabbè, invece quali programmi bisognerebbe guardare, professore? I programmi di una piccola emittente del digitale terrestre, Tele Eros 69, 69 non è un numero a caso, dove ogni notte ci sono dei programmi assolutamente educativi. Per esempio? Per esempio, Cogli la palla al balzo. È un quiz dove delle ragazze, per rispondere alle domande, prima devono prendere una palla da basket che viene buttata in mezzo a loro dal conduttore. E la parte educativa dove sarebbe? È nel fatto che le ragazze sono assolutamente nude. Ma no. E quindi si può imparare alla perfezione l'anatomia femminile dalla testa ai piedi. Sono vestite solo di tacchi a spillo e si accapigliano per prendere la palla. Che tipo di domande si fanno in questo Ma programma? Domande di cultura, generale. Per esempio, qual è il primo film girato da Rocco Siffredi? Oppure qual è il vero nome della ex porno star Selene? Domande fondamentali per una cultura moderna. Fondamentali, grazie professore. Grazie a voi. Molto. E ricordate, Tele Eros 69, Selene si chiama Luce Caponegro. Ho visto tutti i suoi film. Lo sapevo io comunque. Grazie. È un vecchio porco. Arrivederci Mila. Grazie, arrivederci. E allora anche per questa settimana abbiamo finito con Platone, ringrazio Fabio Cantadori in regia e Guido Scotti alla cura del programma, la curatela, tutela e curatela, sono istituti giuridici, Luca Clobas e Danilo Vizzini alle voci del programma e nonché all'autorato insieme a noi, Alessandro Milan e Leonardo Manere sottoscritto. Vediamo appuntamento fissi sabato prossimo alle 9, ciao, grazie!